I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Riforma delle banche popolari, atto secondo. Ieri l'associazione che le riunisce, Asso Popolari, ha fatto sapere che i 3 saggi indipendenti da lei consultati hanno rilevato dei dubbi di legittimità costituzionale nella riforma che il governo, in maniera forzosa, secondo loro, vuole imporre al mondo delle banche popolari, trasformandole in SPA. Sempre il mondo di Asso Popolari ha anche detto di essere disponibile a un confronto con il governo per una riforma di diverso stampo. Sostanzialmente, lo ricordiamo, il governo, con una mossa sorpresa, ha deciso di riformare il mondo delle banche popolari che abbiano un patrimonio superiore agli 8 miliardi e che vuole trasformare in tutto e per tutto alle altre banche normali, alle SPA, e quindi levando il voto capitario, una testa pesa solo per un voto, qualunque sia la quota, levando il limite alla soglia dell'1% e altre caratteristiche che di fatto rendono tutte le banche popolari non contendibili. Da più parti si è detto che forse il metodo usato dal governo è stato un po' troppo brusco, che adesso alcune modifiche potranno essere poste in Parlamento, ma il Premier Matteo Renzi ha fatto sapere che la struttura d'insieme non cambia e nel frattempo il mercato ha già premiato i titoli facendoli crescere in media di oltre il 20%. Resta un rammarico: l'intero mondo delle banche popolari si sveglia solo adesso e solo adesso si dice pronto a trovare un accordo con il governo. Viene da pensare che se il governo non si fosse mosso, il mondo delle popolari avrebbe preferito restare nell'attuale status quo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. C'è una giusta cauta euforia sulle condizioni economiche dell'Italia in questo momento. Le cose effettivamente stanno cambiando e la stabilità politica concorre al miglioramento della percezione del paese sui mercati e non solo, ma occorre stare coi piedi per terra. Anche perché se si sbaglia atteggiamento si rischia di vanificare tutti gli sforzi già fatti. E i dati diffusi dalla Commissione europea sulle previsioni economiche per i paesi dell'Unione ci aiutano a discernere tra realtà e sogno. L'Europa ci dice che quest'anno cresceremo dello 0,6%, più o meno, che può diventare un 1,3% il prossimo anno, quindi poco. Il deficit scende al 2,6% del PIL, e questa è una buona notizia, ma il debito resterà intorno alla quota astronomica del 131% del PIL. La disoccupazione non cambierà di molto e si aggirerà intorno al 12,6%, ma con un piccolo segnale di rialzo per l'occupazione che dovrebbe aumentare dello 0,7%. Sono numeri che danno l'idea di un paese in surplus ancora, ma comunque pronto allo scatto. E quello scatto potrebbe anche essere più veloce del previsto, considerato i dati positivi che si leggono guardando ai movimenti dell'economia reale. Ultimo, quello segnalato poco fa da Confcommercio, che vede oggi una frenata nel calo dei consumi. C'è invece un brutto dato che riguarda la gestione politica del quadro macroeconomico. L'Europa ci dice che gran parte dei risparmi sul bilancio pubblico e che fanno ridurre il deficit vengono dall'abbattimento dello spread e quindi dalla diminuzione del costo per interessi che lo Stato paga per rinnovare anno dopo anno il suo debito pubblico. Il costo del debito cala dello 0,1%, ma la spesa pubblica corrente invece sale di un punto a causa del finanziamento dell'operazione degli 80 euro e non solo. Di tagli ne sono stati fatti quindi pochi, soprattutto nella spesa centrale. La riduzione dei trasferimenti a comuni, province e regioni rischia poi nel frattempo di portare a un nuovo incremento delle tasse locali, visto che ad esempio ben il 38% delle regioni potrebbe aumentare l'IRPEF. Insomma, guai se non traducessimo il vantaggio dello spread in un raddrizzamento strutturale dei conti pubblici. La ripresa così verrebbe davvero strozzata in culla. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.